siede, accostati superbo, e fisso il guardo nel posto luminoso che perdesti. Posto da stare un attimo, e al basso impiego innanzi al suo signor pieghi il ginocchio dell'orgoglio ottomano unica erede. È giusto! Temerario! Olà, fermate! Numica il corvo, voi mi ispirate il colpo, voi lo guidate. Eccomi pronto all'opera! Che pensa sterria? Che risolve? Bevi, superbo, bevi, in questo nappo che ti porge a sterina, d'ambizione l'immensa sete estingui. Mira la figlia, Bajazet, vogete Andronico l'amata, questo è suo dono, e perché suo consorno questa tazza all'amante?